Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti ad una nuova puntata di Fermata Provvisoria, rubrica all'interno di Fuscico Factory per dare voce e spazio agli artisti emergenti e alla loro musica. Oggi intervisteremo Matteo, cantante degli Heisenberg. Il progetto Heisenberg nasce a Roma nel febbraio del 2010 da un gruppo di amici provenienti dalla scena punk hardcore. Nel dicembre del 2011 vede la luce il primo EP, Immaginare linee matematiche tra cielo e terra. L'EP è caratterizzato da forti influenze di matrice emo post-hardcore, ma anche di un forte carattere distintivo dalle intense venature post-rock. Si estende a questo punto l'attività live in città come Napoli, Milano e Firenze. Nel 2014 il gruppo rilascia un nuovo singolo, Caporeto, considerato un secondo capitolo del loro percorso musicale, e la band riparte in tour in Italia e poi in Svizzera. Finalmente, alla fine del 2019, vengono portate a termine le registrazioni del terzo capitolo Lunazione, pubblicato in digitale a novembre 2020 e in uscita in 200 copie in vinile. L'EP è un concept legato alle fasi di congiunzione fra la luna ed il sole, porta continuità, ma sposta i riferimenti con maggiore attenzione alla melodia, sia sonora che lirica. Ora ci ascolteremo Nera Era, uno dei pezzi degli Heisenberg, e subito dopo torneremo con Matteo, che ci parlerà un po' della band e del loro EP Lunazione. Respirare. Ciao Matteo. Ciao Giulia, piacere. Piacere mio. Voi come state? Tutto bene, grazie. Oggi sono solo, purtroppo non ci sono gli altri del gruppo, ma anche gli altri stanno bene. Come vi siete conosciuti? Anche perché molti di voi, componenti della band, sono un po' sparsi in diverse aree geografiche. È corretto, diciamo che non è sempre stato così. Ci siamo conosciuti a Roma, siamo originariamente tutti di Roma e alcuni erano amici del liceo, quindi da lunga data e io sono arrivato un po' dopo, ma abbiamo tutti partecipato alla scena, diciamo, punk hardcore romana dei primi anni 2000 e ci siamo conosciuti per questo interesse comune, direi, e poi nel tempo con la vita e con il lavoro ci siamo un po' allontanati fisicamente nel tempo. Quindi vi siete un po' conosciuti a Roma? Sì, a Roma eravamo, diciamo, cioè adesso non è più così purtroppo, ma c'era una fervida scena, come dicevo, diciamo, sotto il bosco punk hardcore, e c'erano tanti locali, alcuni adesso non ci sono più, il Super Noise in particolare, il Dal Verme, poi dopo dove c'erano anche, abbiamo anche organizzato tanti concerti, non abbiamo solo suonato, ma all'inizio anche io proprio personalmente organizzavo concerti per altri gruppi, c'era un bel humus e ci siamo conosciuti lì, diciamo. Topoline Matematiche tra Cielo e Terra, uscito nel 2011, il nuovo EP si chiama Lunazione. Poi sì. La domanda sorge un po' spontanea: come sono nati i titoli di questi album? Cioè, c'è qualcuno di voi interessato all'astronomia? Qualche componente? È una bellissima domanda, non sono sicuro di poterti rispondere, no? Allora, il primo titolo fu un'idea di Giovanni, il batterista, che ora mi ucciderà, non ricordo esattamente da dove lo prese, ma lui è praticamente uno storico, quindi aveva trovato questo titolo in una delle sue ricerche e sembrava calzare molto bene quello che volevamo fare, essendo noi un po'... ci piace l'astronomia. In verità il primo disco era molto legato alla fisica, anche strizzando l'occhio al nostro nome, che è il nome di Werner Heisenberg, un fisico abbastanza seminale, se così si può dire, anche se abbiamo anche preso il nome dalla serie TV, da Breaking Bad, quindi un po', lasciami dire, la nostra natura ibrida fra la parte scherzosa e la parte più seria. Ma sì, siamo abbastanza appassionati di fisica, di astronomia e abbiamo cercato di portare un po' quella materia, diciamo, nelle nostre nei titoli dei dischi, ma anche nei testi, nelle canzoni. E Lunazione invece nasce un po' più da, in realtà è figlio di un discorso delle fasi della vita che della fisica in sé, però è tutto collegato, quindi questi sono i motivi. Ok, personalmente li trovo molto interessanti come titoli, cioè molto originali. Grazie, mi fa molto piacere. E invece parliamo un po' di Caporetto, ok? Quindi con l'uscita del singolo Caporetto, considerato un po' un secondo capitolo del vostro percorso, la band è ripartita in tour in Italia e in Svizzera. C'è un concerto tra questi che vi ricordate, non so, in particolar modo per aneddoti accaduti in tour? Sì, è una bella domanda, perché in questi giorni abbiamo fatto un po' insieme agli altri abbiamo ripercorso un po' quasi tutte le nostre date, quindi è certo a fagiolo. Direi che ogni data ha avuto una sua storia, ma la possibilità di uscire fuori, di suonare in Svizzera, almeno personalmente, è stata forse la cosa più bella di tutte, e quindi, diciamo, tutte quante sono state divertenti, ma in particolare una cioè, credo rimasta nel cuore. Abbiamo suonato a Davos, che dove c'è il World Economic Forum tutti gli anni, quindi un contesto completamente diverso da quello nostro, in un piccolo bar davanti a un caminetto, per credo fossero una quarantina di persone, quindi è abbastanza contenuto come pubblico, ma in mezzo alle montagne, diciamo che l'atmosfera era molto affascinante, mettiamola così. In quel periodo lì ti direi questa. Ora ci possiamo ascoltare un altro brano tratto da Lunazione, che è Il Destino Non Tradisce. Thank you. sento solo le ombre degli alberi stringersi a me. Si alzano roghi in cupe vampe. Bruciano libri e percorsi, ma le mie parole attraversando il tempo perdono i sensi. E allora ti vengo a cercare perché ho bisogno della tua essenza, per capire meglio la mia essenza ed assenza. Perché mi piace ciò che pensi e ciò che dici. Era Il destino non tradisce degli Heisenberg. E torniamo a parlare con Matteo, cantante del gruppo. Matteo, dici un po' come è nata questa idea di pubblicare 200 copie di un'azione in vinile. Come mai questa decisione alternativa? Allora, noi siamo, anche il primo disco è uscito 100 copie in CD e all'epoca 100 copie in vinile, quindi era più democratica la cosa tra i due formati. Però ecco, per dirti che abbiamo sempre amato e prediletto quel formato. La decisione è legata sì al fatto che per noi è il formato più caldo, ovviamente, insomma ti dirò delle banalità, ma dove secondo noi si può apprezzare veramente, ecco, il diciamo sia la musica che l'oggetto fisico in sé, soprattutto nell'epoca ovviamente della fruizione completamente digitale. Quindi anche noi personalmente abbiamo tutti sempre comprato in vinile e quindi pensiamo che ci porti un po' più veramente dentro le case, speriamo i cuori o gli stereo, mettiamola così, delle persone. Il formato è perfetto. Tornerei un attimo indietro su In Nera Era, perché In Nera Era citate un verso di una canzone di Lucio Battisti, ossia abbracciala, sì, abbracciali, abbracciati. Dunque immagino che Battisti sia un artista influente nella vostra musica. Quale altre influenze, sì, avete avuto nella la vostra formazione? Allora, sicuramente intanto il disclaimer è che è più influente per me personalmente che per noi o per tutti gli altri nella nostra musica, anche se insomma, essendo una pietra miliare della musica italiana, entra un po' in tutte le cose. Altri gruppi, noi siamo partiti da una forma anche del, soprattutto il primo disco, quasi dal limo scrimo, diciamo, da cantare, insomma, cose un po' più ruvide. Quindi in Italia i punti di riferimento erano i La Quiete, che abbiamo consumato, di quei dischi abbiamo consumato. Però ci piacciono moltissimo un po' di, cioè, tante cose diverse, compreso la scena punk hardcore di qualche decennio prima, quindi Negazione e via dicendo, ma molto anche cose più riflessive come il Massimo Volume, ai quali diciamo spezziamo un po' l'occhio col massimo rispetto, ovviamente, per quanto riguarda anche il cantato. E nulla, ti direi, ovviamente tutta la scena italiana, anche più diciamo negli anni successivi, Imo, quindi i Riviera, i Find Before You Came, Verme, diciamo tutti quei gruppi che poi adesso chi più chi meno è rimasto, hanno fatto un po' la storia, li abbiamo portati tutti dentro di noi sicuramente. Anche un po' di post rock, ci sono sempre piaciuti tanto gli Explosion in the Sky, Godspeed You Black Emperor, quindi tutte queste cose messe insieme siamo noi. Grazie mille Matteo, e grazie a tutti gli altri componenti della band che purtroppo non sono qua oggi, ma concludiamo con A Chi Misericordi, nonché un altro pezzo tratto dall'EP Lunazione. Ciao a tutti. Grazie Giulia. E grazie a te Matteo. Per poterti finalmente trasformare.